Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, che cosa ci riserva questa giornata economico-finanziaria? Beh, dopo la decisione presa ieri sera dal Consiglio dei Ministri e poi oggi illustrata dal Ministro Tremonti nell'informativa alla Camera, la decisione del Governo italiano che segue, anche se poi vedremo le differenze, quanto già fatto non tanto dalla Germania, che ha garantito tutti i depositi bancari, ma dalla Gran Bretagna ieri, con un ammontare diverso. In Gran Bretagna si tratta di 70 miliardi più o meno di euro, in Italia sono 20 miliardi, appunto, però fondo di garanzia delle banche. Manca ancora il testo definitivo, quindi non potremo essere così precisi come avremmo voluto. Quello che si è capito è che il meccanismo è simile a quello già sperimentato appunto in Gran Bretagna, ma anche in altri casi, e cioè in quel caso le banche consegneranno, otterranno i soldi in cambio di azioni e daranno allo Stato, al governo, al tesoro nel caso specifico, azioni di carattere, azioni privilegio, che sono quelle azioni che non permettono il voto, di solito hanno rendimenti più alti. Questo poi porterà anche ad alcune ricadute dal punto di vista della presenza dello Stato nelle banche, qualora vedremo chi vi farà ricorso. Poco fa di banche ha parlato di nuovo il Presidente del Consiglio Berlusconi, dicendo che per quello che riguarda il titolo Unicredito sarà necessaria probabilmente una ricapitalizzazione per ripianare le perdite realizzate sulla controllata tedesca del gruppo Unicredito. Parleremo quindi di questo piano, cercheremo di capire anche che cosa si stia muovendo dentro i correntisti bancari, perché questa assicurazione è un'assicurazione importante, se ci siano dei movimenti che dal fronte dell'investimento in fondi o in altri strumenti, polizze vita o in azioni, quindi il cosiddetto portafoglio titoli, si stanno spostando invece sul fronte obbligazionario o sui pronti contro termine, e questo lo faremo poco prima dei mercati. E poi parleremo del caso britannico, perché oggi della Gran Bretagna non solo è il giorno dopo la decisione abbastanza storica per quel paese, ma anche il giorno in cui il mercato britannico è letteralmente, il mercato immobiliare britannico è letteralmente crollato, nel senso che a settembre il calo nei prezzi delle case in Gran Bretagna ha fatto un meno 12,5% anno su anno ed è la contrazione più forte dal 1983, quindi da 25 anni. Attenzione, perché è l'anno in cui questa statistica fu introdotta, perché non sappiamo se in realtà non sia la maggior contrazione da sempre. La crisi finanziaria infatti ha gelato le compravendite in Gran Bretagna e ha spinto le banche ad essere più caute nel concedere i mutui, meno 12% nei prezzi. E poi, Strauss-Kahn, il numero uno del Fondo Monetario, che dice siamo vicini a una situazione di recessione globale, molti paesi sono a crescita zero. Le ha fatto eco oggi la Banca Centrale Europea, perché ha detto c'è una incertezza straordinaria, la ripresa forse arriverà gradualmente nel corso del 2009 e comunque le ripercussioni sono sulla crisi mondiale, le ripercussioni saranno sull'economia mondiale. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, fermo restando che la parte più importante di questa puntata sarà dedicata proprio all'iniziativa del governo sul fronte bancario, vediamo in breve le altre notizie. E partiamo dai mercati con queste notizie. Le borse oggi hanno conosciuto una giornata di nuovo molto molto incerta. Che cosa è successo? Beh, questa mattina l'Asia aveva tenuto, anche se gli stimi erano abbastanza incerti. La borsa di Mosca aveva riaperto guadagnando il 5,4% e tutte le borse europee hanno in mattinata tentato un rimbalzo tra l'1 e l'1,5%. Ha aperto poi in rialzo anche l'America. Il problema è che adesso l'America stessa, ad aver girato in negativo, lo ha fatto 40 minuti fa, ma sta peggiorando vistosamente. un punto e mezzo percentuale adesso il calo del Dow Jones e il Nasdaq meno 0,4. Questo ha provocato in Europa un cambio di rotta e anche abbastanza netto. Parigi adesso perde il 2,12, Francoforte il 3%, Londra la migliore, mezzo punto percentuale di calo. Milano perde l'1,3% sul MIB e un punto e mezzo sull'S&P MIB. In netto recupero alcuni titoli. Unicredit è arrivata a guadagnare l'8%, adesso guadagna il 5% a 2,56€. Italcementi guadagna l'8%, Mediolanum il 4,2%, Ubibanca il 3,5%, Impregilo il 2,80%, come Tenaris, Geox più 2,4%, Seat pagine gialle più 2,2%. E ancora il 2,1 è il rialzo di Fastweb, l'1,80 quello di Parmalat, l'1,2 quello di Unipol. Molto male Terna, meno 6,4, Enel meno 6,3, Bulgari meno 5,80, Prismia meno 5,7, Intesa meno 5,4, Snam meno 4,2 come il Monte dei Paschi. Il 4,1% lo perde Luxottica, il 3,6 Atlantia e anche la Popolare di Milano. Il 2,7 è il calo di A2A e anche di Generali, il 2,5 lo perde Fondiaria, il 2,2 Eni, l'1,80% è il calo di Mondadori, l'1,6 quello di Telecom e un punto e mezzo perde Mediaset. Infine l'1,3 lo perde Buzzi Unicem e lo 0,90 Finmeccanica. E allora dicevamo, mentre da un lato il petrolio è di nuovo in calo a $88,8 al barile, l'euro è a quota 1,36,4, l'OPEC ha annunciato che farà una riunione straordinaria il prossimo 18 novembre, perché? Perché deve fronteggiare il calo dei prezzi del petrolio. Vabbè, calo a $90 al barile è sempre un problema di come lo si vuole vedere questo petrolio. Certo che se lo produci ti eri abituato a $140, $90 è un prezzo troppo basso, ma se come noi ti eri abituato a un petrolio a $30-$40 siamo ancora al doppio rispetto a 2 anni fa. I tassi, molti di voi ci hanno chiesto, ci chiedono, ma insomma sta calando anche il tasso che viene utilizzato per i prestiti ai clienti e comunque per i mutui, il tasso Euribor? Ebbene no, l'Euribor a 3 mesi resta a livello record di 5,39%, è il livello più alto di sempre. Si è allentata la tensione sui tassi a più breve scadenza, quello una settimana è sceso al 4,79 contro il 5%, quello 2 mesi è sceso di pochissimo. Ma insomma, se la domanda riguardava l'iniziativa di ieri delle banche centrali, ossia l'Euribor, è calato di mezzo punto percentuale? No. Come mai no? Beh, perché l'Euribor è il tasso interbancario. Se le banche tra di loro continuano a non fidarsi, evidentemente non recepiscono neanche l'indicazione che è arrivata dalla Banca Centrale Europea, cioè mezzo punto percentuale di calo. C'è una sfiducia tra banche e evidentemente non basta nemmeno abbassare il tasso ufficiale di riferimento, il tasso ufficiale di sconto, per far cambiare, diciamo, rotta e clima al mondo bancario. Altre notizie dall'America, le richieste di sussidi di disoccupazione sono più o meno in linea con le attese. Le scorte aumentano più delle attese, ma insomma la cosa più importante oggi sul fronte internazionale deriva dalla notizia che abbiamo dato sulla Gran Bretagna, cioè i prezzi delle case che hanno il maggior calo da sempre, e poi, come ricordavamo, il fatto che il Fondo Monetario dica siamo vicini a una recessione globale, molti paesi avanzati sono a crescita zero. E sempre però la Banca Centrale oggi, dopo aver detto che l'incertezza è straordinaria, ha fatto presente come 4 paesi dell'area euro, Grecia, Francia, Italia e Portogallo, si distinguono per non essere riusciti a rispettare gli obiettivi di bilancio negli ultimi anni. E affronteremo nei prossimi giorni anche il tema che a nostro avviso rappresenta la prossima frontiera di questa crisi, l'abbiamo detto più volte, fare in modo che questa crisi non diventi da finanziario, da bancaria finanziaria, a anche puramente economica, ossia che oltre ai danni per i risparmiatori non vi siano danni anche sull'occupazione. Il timore che le banche timore, in alcuni casi è già una certezza, ma insomma che le banche operino un giro di vite nel credito alle imprese, oltre che nel credito ai cittadini, ai mutuatari, e quindi facciano mancare liquidità alle imprese che ne hanno bisogno per fare investimenti, per pagare investimenti già fatti, per sviluppare investimenti futuri. Dico, di questo parleremo nei prossimi giorni. Oggi su questo è intervenuto l'ex presidente Confindustria Luca di Montezemolo, a margine della presentazione di un accordo che poi vi ricorderemo tra NTV e le ferrovie francesi. Ha detto: attenzione, le banche stiano particolarmente vicine alle piccole imprese. Noi siamo un paese, grazie a Dio, con grande voglia di imprenditori, imprenditori capaci, industria, manifatturiero. Io credo che quando questa crisi sarà finita l'Italia sarà uno dei paesi che pagherà meno, e me lo auguro, tutto quello che sta succedendo. A condizione che le banche mettano ancora in condizioni gli imprenditori e soprattutto i più piccoli di avere quegli aiuti e quella liquidità che è necessaria per il loro lavoro. Ci vuole anche un po' di ottimismo, malgrado mi renda conto che è una situazione molto difficile, perché purtroppo i guai di una finanza fuori dall'economia e dall'industria stanno fortemente ricadendo anche sull'industria. E ancora, oggi però c'è un caso che viene legato da tutte le agenzie alla crisi dei mutui, alla crisi diciamo finanziaria, perché ormai chiamarla crisi dei mutui è assolutamente riduttivo e sbagliato. La Eaton Corporation, colosso americano della meccanica fine, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Massa, in provincia appunto di Massa e Carrara. Una scelta comunicata questa mattina ai sindacati: resteranno senza lavoro 345 dipendenti. La chiusura definitiva dello stabilimento avverrà al termine di un periodo di cassa integrazione di 75 giorni. E adesso, per quello che riguarda gli altri temi, partiamo dalle mosse del governo, ossia ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge con le misure per fronteggiare le conseguenze della crisi finanziaria. Fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Alcuni di voi fanno notare vabbè, alle banche conviene anche non far scendere l'Euribor, visto che comunque è sceso il tasso ufficiale di riferimento, ci guadagnano sulla differenza. Sì, temo purtroppo che il motivo sia più ampio, quello che molti di voi ricordano, e cioè della mancata fiducia da banche a banche che si prestano fisiologicamente denaro come attività normale, perché non si fidano di quello che può avere in pancia l'altra banca, e quindi in qualche modo della, così se mi passa il termine, affidabilità della banca a cui vanno a prestare denaro. Allora, cosa ha deciso il governo ieri col Consiglio dei Ministri? I risparmiatori, l'aggiunta della garanzia statale oltre a quella già fornita dal fondo interbancario su tutti i depositi dei risparmiatori fino a 103.000 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un fondo interbancario che vale mezzo miliardo di euro, più o meno 520 milioni di euro, vado a memoria. Il governo ha detto che su questo fondo, oltre che essere un fondo a cui hanno contribuito, creato dalle banche, c'è la garanzia comunque sui depositi dei risparmiatori anche dello Stato. E poi la nascita di un fondo che consenta allo Stato la partecipazione ad eventuali ricapitalizzazioni di istituti bancari, un fondo che dovrebbe disporre di, da quello che si è capito, fino a un massimo di 20 miliardi di euro. L'ingresso nel capitale delle banche sarà temporaneo, quindi acquistando azioni privilegiate, nel senso che se una banca andrà in difficoltà, a quel punto il governo interverrà acquistando azioni privilegiate, lo Stato di fatto, privilegiate di questa banca, è di fatto un aumento di capitale sotto forma di investimento azionario, e lo Stato potrà chiedere l'allontanamento dei manager responsabili della cattiva gestione dell'istituto. Infine, la Banca d'Italia renderà più snelle e rapide le procedure prestiti alle imprese, in pratica chiederà garanzie meno stringenti per fornire liquidità alle banche che prestano soldi alle imprese. però non è previsto nel provvedimento un fondo ad hoc, quindi un fondo dedicato proprio ai prestiti, ai crediti che le banche concedono al mondo delle imprese. E allora, per quello che riguarda poi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, oggi ha detto Silvio Berlusconi: consigliamo agli italiani di non vendere le proprie azioni ma di mantenerle, perché tra 18-24 mesi il prezzo delle azioni tornerà a un livello giusto. E poi sulle banche italiane ha detto: non c'è nessun problema, stiamo passando in rassegna tutte le banche italiane e interverremo dove si verificassero problemi di patrimonializzazione insufficiente, quindi capitale insufficiente, ma al momento, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, non si vedono casi di questo tipo. E questa mattina il Ministro dell'Economia Tremonti, intervenendo alla Camera, quindi nella sua, riferendo alla Camera del provvedimento, ha detto: non vi sono particolari anomalie in Italia, nelle nostre banche non si parla inglese. Rispetto a questa fenomenologia di crisi, l'Italia non presenta particolari anomalie. Ho avuto occasione di dire in questo Parlamento che un carattere proprio del sistema bancario italiano, nel quale si conosce poco, salvo alcune encomiabili eccezioni, si conosce poco la lingua inglese, lo ha in un qualche modo preservato in un suo carattere meno progredito, meno avanzato, meno sofisticato, lo ha preservato dagli elementi di crisi che vediamo in altri paesi europei. E con un certo, come dire, riconosco la convergenza su questa valutazione da parte del mio predecessore, che ha definito più elegantemente in questi termini il sistema italiano più robusto. Ed è esattamente così. E quindi, nelle parole del Ministro Tremonti, una spiegazione che già abbiamo letto in questi giorni, e cioè, paradossalmente, ne abbiamo parlato anche con il direttore generale dell'ABI una settimana fa, Giuseppe Zadra, a questi microfoni, un paio di settimane fa forse, le banche italiane, essendo meno internazionali di altri colossi europei, erano meno presenti negli Stati Uniti, a Wall Street, ma anche nella City di Londra, e meno presenti laddove venivano sviluppati questi geniali prodotti di carta su carta che stanno sconvolgendo il ciclo non solo finanziario ma anche economico a livello mondiale. E quindi, paradossalmente, questa loro minor sofisticatezza sull'ingegneria finanziaria le ha, in maniera forse anche non voluta ma di fatto, messe al riparo da un'esposizione molto forte nei confronti di questi prodotti. Non a caso la banca che per ora ne sta più risentendo è Unicredit, che era la banca definita la più internazionale, la più presente su vari mercati, soprattutto Germania, Austria, Est Europa. Vediamo adesso che cosa ha detto il Ministro Tremonti, anzi sentiamo sul fronte del fondo, come interverrà questo fondo e come opererà. L'intervento sul capitale non è previsto ex ante, sarà solo, e pensiamo, speriamo che non debba o possa essere necessario, sarà solo caso per caso. Ed è questa la ragione per cui non abbiamo predeterminato cifre in ordine agli interventi. Come è stato detto durante questa crisi, nei casi più fortunati di intervento, quanto basta. Non è nell'interesse del Paese che una banca fallisca, è nel potere del Governo evitare che una banca fallisca. Quando c'è bisogno di capitale, il Governo mette capitale e non lo fa per ritornare la politica e il Governo nelle banche, lo fa per una ragione diversa di generale interesse pubblico. Non sarà il capitale nelle banche attivo nella gestione, sarà un capitale che esaurisce il suo ruolo nella forma e nel tipo delle azioni privilegiate, nelle azioni che non hanno diritto di intervento diretto. L'unica cautela è quella che viene prevista nella delibera del Consiglio europeo: se usi il denaro del contribuente, che questo sia usato bene, per fare andare la banca e non per conservare il posto a chi ha sbagliato. L'intervento sarà comunque temporaneo e l'esperienza storica ci indica che questi interventi se operati in un modo corretto, alla fine hanno un ritorno per il contribuente. Se la banca viene risanata e se esci da una banca risanata, porti a casa più capitale di quello che ci hai messo dentro. Allora, il ministro Tremonti ha chiarito, l'intervento sarà caso per caso. In effetti la cifra dei 20 miliardi è la cifra che molti hanno riportato oggi, che è una cifra spannometrica, per usare un termine poco economico-finanziario. Bisognerà vedere caso per caso quali saranno le richieste delle banche, quante banche andranno a chiedere di poter accedere a questo fondo del tesoro e quindi in quanti casi il tesoro entrerà dentro le banche comprando azioni privilegiate. Dal punto di vista della garanzia sui depositi bancari, Tremonti lo ha detto, non permetteremo che in Italia nessuna banca fallisca, quindi nessuno perderà un euro messo in banca. Sul fatto che il decreto potesse arrivare prima, Tremonti ha detto no, sarebbe stato controproducente. La fiducia è una componente essenziale del sistema. Il sistema italiano ha il più stabile e strutturato sistema di garanzie sui depositi. Eravamo già sopra la soglia che il Consiglio europeo del 7 ottobre ha raccomandato a tutti i paesi europei. L'Italia era già sopra quella soglia europea. Siamo in attesa della disciplina europea di questa materia, che sarà approntata al più presto dalla Commissione. Abbiamo comunque ritenuto opportuno aggiungere alla garanzia mutualistica in essere la integrale garanzia pubblica. Ma in ogni caso, e torno al punto di partenza, non è questo il punto centrale. Noi pensiamo che non esiste in assoluto in radice un problema sui depositi bancari, perché noi escludiamo il fallimento delle banche. Noi crediamo che questo intervento sia stato fatto assolutamente in tempo e che sia assolutamente in linea con quanto è stato deciso in sede europea. Sarebbe stato, eppure abbiamo sentito tante volte, e comprensibili da un certo punto di vista, abbiamo sentito tante volte l'invito, cosa fate, siete in ritardo, non fate niente. Era impossibile fare qualcosa fuori dallo schema europeo. È stato possibile farlo a valle del Consiglio europeo di lunedì e di martedì. Sarebbe stato forse anche possibile nazionalmente, ma non sarebbe stato nell'interesse nazionale un atto unilaterale. L'intervento di ieri è assolutamente in linea con le raccomandazioni che abbiamo convenuto di attribuire da un governo all'altro, tutti insieme in sede di Ecofin. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, per arrivare adesso anche agli effetti pratici per i correntisti dell'iniziativa presa e annunciata ieri sera dal governo, oggi illustrata nella sua informativa alla Camera dal ministro Tremonti. Arriveremo anche ai manager, agli stipendi dei manager, oggi c'è un caso bellissimo, però vi vorrei fare sentire prima che cosa ha dichiarato l'onorevole Bersani, da un lato sull'iniziativa del governo, non soddisfatto, l'ho detto al microfono del nostro Andrea Viali, delle parole del ministro Tremonti. Qui non casca solo il castello di carte della finanza, non casca per terra solo il rito anglosassone, altro che Cina, meno male che c'è la Cina. Non è solo un fallimento del mercato, non è solo un fallimento della regolazione. Qui c'è un fallimento di una politica economica e di una politica di regolazione sociale, che negli anni ha pensato di attribuire alla finanza un ruolo sostitutivo dell'incremento dei redditi da lavoro, delle politiche redistributive e delle politiche di welfare. quasi che garantire i consumi, garantire il reddito, garantire la sanità, garantire l'abitare, garantire le pensioni, potesse venire da quel meccanismo. Usciti da sta crisi dovremo riflettere su quale società, e si vedrà anche retrospettivamente, documenti alla mano, chi ha ragione e chi ha torto, perché non si può sempre star con la ragione mai coi torti. Questo è l'intervento in aula, contrariamente a quanto avevo detto, dell'onorevole Bersani. Dicevo invece, all'uscita, dopo l'intervento del ministro Tremonti, lo ha raggiunto il nostro Andrea Viali. Esaustive? Proprio no, se consideriamo che noi siamo di fronte alla più grande crisi dal 29 e che abbiamo avuto un dibattito in cui gli interventi erano contingentati in 5 minuti sulla base di una relazione che ha fatto un po' di cronistoria, ha illustrato alcune decisioni certamente ragionevoli ma assolutamente insufficienti, perché non vanno al tema dell'economia reale in questo momento. Si può parlare solo di banche, qui ci sono di mezzo temi che riguardano la piccola impresa, che riguardano l'andamento dei redditi delle famiglie. Se non le prendiamo da lì, noi non possiamo iniettare fiducia nel sistema. Quindi benissimo interventi sulle banche, ma noi pretendiamo, chiediamo che in questo decreto ci siano misure immediate di defiscalizzazione, di detrazioni fiscali per i redditi medio-bassi e misure per costituire un fondo di garanzia o di controgaranzia forte, solido, per il sistema delle piccole e medie imprese che adesso non riescono a accedere al credito. E allora, questo è il giudizio dell'ex ministro Bersani. Dicevamo del decreto Alitalia, che conteneva la norma che ha fatto oggi arrabbiare anche Tremonti sui salva manager. Tremonti aveva detto in aula: o va via l'emendamento o va via il ministro dell'economia. L'emendamento, poi si è saputo, salva manager, inserito nel decreto Alitalia, sarà al Senato, sarà eliminato alla Camera. Però al Senato alcuni relatori hanno fatto notare che nella norma salva manager erano esclusi dall'applicabilità i casi di accertata falsità dei documenti posti a base della procedura. Quindi non si applicherebbe ai casi, per esempio, Parmalat e Ciro, in cui c'è una falsità dei documenti. Poi parleremo anche di Parmalat. Sembrerebbe invece che il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto potrebbe beneficiare della norma salva manager. Infatti per Fitto la procura di Bari ha chiesto da qualche tempo il rinvio a giudizio per concorso in turbativa d'asta e nell'interesse privato del curatore del fallimento della Cedis SRL. Però, se vogliamo parlare di manager, responsabilità, questa storia è bellissima, vi è voglia di piangere, meglio prenderla a ridere. Allora, alcuni di voi ricorderanno che la AIG, cioè l'American International Group, il gigante americano delle assicurazioni, è fallita ed è stata salvata da un intervento straordinario della Banca Centrale Americana, 85 miliardi di dollari, a cui si sono aggiunti altri 38 miliardi di dollari ieri. Insomma, una cifra che viaggia sui 120 miliardi di dollari, pari così a una decina di manovre finanziarie in Italia. Ebbene, la cosa interessante è che durante un'audizione alla Commissione per la Trasparenza della Camera dei Deputati americana si è scoperto che 70 dirigenti del colosso American International Group, poco prima che saltasse per aria, hanno passato lussuose vacanze a spese dell'azienda. E dove le hanno passate? Beh, insomma, hanno avuto questi 70 manager un costo complessivo di $440,000, 900, diciamo, 800 milioni delle vecchie lire, $1,600 a notte per dormire, quasi 7.000 per il campo, a testa chiaramente, quasi 7.000 per il campo da golf e altri $23,000 spesi dai 70 manager, o forse dalle loro mogli, in cure di bellezza. Quando sono tornati poi American International Group è fallita e tanti soldi non li ha mica messi loro. La cosa interessante è che il numero uno, Martin Sullivan, si è difeso dicendo: beh, la vacanza l'avevamo programmata prima del crack, come se uno potesse mettere in agenda la settimana prossima ferie, settimana dopo crack. Ma è una cosa incredibile. E Sullivan nel 2005, nel 2006 e nel 2007 aveva guadagnato ogni anno 22 milioni di dollari, una quarantina di miliardi all'anno, cioè 60 miliardi in tre anni, scusatemi, 60 milioni in tre anni, cioè 120 miliardi di vecchie lire in tre anni come stipendi. Poi all'inizio del 2008 Sullivan si è garantito, si è dato un premio in contanti per 5 milioni di dollari e una liquidazione, perché poi non si sa mai nella vita, di 15 milioni di dollari, anche qui siamo vicini ai 30 miliardi delle vecchie lire. Poi quando si è dimesso a giugno, che la banca già viaggiava male, ha beccato altri 40 milioni di dollari e poi ha continuato a beneficiare dell'auto, dell'ufficio. Poi, siccome è una persona generosa e pensa anche alla famiglia, i suoceri di Sullivan hanno continuato a vivere in un club esclusivo della società. Certo che il pesce puzza dalla testa, infatti il suo direttore finanziario Joseph Cassano, che ha guadagnato dal 2000 al 2007 in tutto 280 milioni di dollari, anche qui siamo sui 500 miliardi delle vecchie lire. Poi a inizio 2008 ha pensato bene di uscire dal gruppo, però ha chiesto una consulenza, un milione di dollari al mese. E insomma, tutto mondo e paese, tutti tengono famiglie, tutti tengono la family, a questo punto potremmo dire. Marco Liera, occupiamoci di cose non più serie, perché sono serissime queste cose, viene da ridere, ma poi si capisce che cosa non ha funzionato anche in questa bolla. Per esempio, come spesso ricordiamo, che i manager più pagati delle società americane hanno dei rapporti rispetto ai loro dipendenti di 275 volte il salario del lavoratore medio, negli anni 70 era appena 35 volte. Forse un Marco, visto che tu sei responsabile di Plus, ti occupi da anni anche a questi microfoni dei temi del risparmio gestito, prima di andare con le informazioni per chi è in viaggio, una nota si potrebbe anche dare su questo. Poi veniamo al decreto del governo. Cioè, all'interno di questo delirio, di questo castello di carta tossico, forse la tossicità l'hanno creata anche certi stipendi, o no? Ma certamente c'è stato un grosso squilibrio, perché è sacrosanto che i manager debbano essere remunerati sulla base dei risultati. Però quando i risultati non arrivano e anzi le società falliscono o finiscono sull'orlo dell'insolvenza, non si capisce perché debbano incassare questi soldi. Purtroppo abbiamo scoperto che i risultati per un certo numero di anni arrivavano ed erano quindi giustificate al limite queste retribuzioni. Purtroppo questi obiettivi però erano di breve periodo, erano insostenibili, tant'è vero che ricordo il miglior trimestre della storia per Lehman Brothers, non è accaduto qualche anno fa, era il quarto trimestre del 2007. Allora, tra il quarto trimestre del 2007, risultati record per Lehman Brothers, retribuzioni record quindi di conseguenza per i suoi manager, sono passati meno di 9 mesi per arrivare al dissesto. Quindi è incredibile come questi meccanismi retributivi abbiano rilevato la loro totale debolezza, perché non sono legati alla sostenibilità dei risultati. Sì, questo è grave, oltre al fatto che forse anche un po' più di proporzione tra quanto becca in media un dipendente, quanto becca il numero uno, negli anni 70 era 1 a 35, siamo arrivati a 1 a 200. Ma questo è assolutamente vero. D'altra parte io ho l'impressione che a volte questi mega stipendi a favore dei manager non vengano erogati soltanto sulla base dei risultati, siano essi di breve o di lungo periodo, ma per il semplice fatto di ricoprire certi ruoli. Certo. Allora, il ricoprire certi ruoli vuol dire, per esempio, avere delle informazioni riservate. E allora, questa riservatezza deve essere retribuita, no? Tanto per dirne una. Non solo, la fedeltà purtroppo paga. Abbiamo visto all'interno di certe aziende come, al di là dei meriti, questo riguarda aziende di ogni angolo del pianeta, al di là dei meriti sono state premiate le fedeltà al capo di turno. Ecco, queste sono tutte ragioni che dovrebbero essere valutate però nel merito dagli organi che all'interno delle società quotate sono deputati a giudicare a fissare le remunerazioni. Purtroppo ci sono questi meccanismi di governance evidentemente che hanno dimostrato una loro debolezza strutturale, perché non sono riusciti a tutelare il bene e il valore dell'azienda, anzi hanno creato soltanto molto benessere a favore dei manager. Ma insomma, comunque la giustificazione di Sullivan, che ha detto: ma io la vacanza l'avevo fissata prima del crack, a me continua a far ridere. Mi sembra l'ex manager di numero uno di Bear Stearns, che durante la crisi con altri amici stava giocando a bridge e giustamente, siccome la banca non aveva problemi, infatti adesso non esiste più, aveva staccato il cellulare, i BlackBerry e quant'altro. Cioè qua stiamo di fronte a... Ma queste sono cose di colore. Ci sono stati anche dei manager che hanno incassato svariati milioni di euro sull'oro dell'insolvenza delle rispettive aziende solo perché sono stati chiamati all'ultimo momento a ricoprire delle cariche, sì, che nessun altro voleva ricoprire. No, abbiamo anche noi i nostri esempi, FS, all'Italia, su tutti. Però questi, diciamo, ci danno, come sempre, l'America ci danno qualche spanna quanto ad ammontare, e vabbè, più che manager mi sembrano dei rurali, detto con massimo rispetto nei ragionamenti che sentiamo. Non ne vuol sapere la borsa di ripartire, nonostante il taglio della BCE, nonostante gli interventi dei governi. La cosa interessante, ne parleremo nella seconda ora a questo punto, è che le banche, le peggiori oggi sono la Popolare di Milano, perde un altro 8,8% e scende a 4 euro per azione, e Intesa San Paolo meno 7,6%. Sul fronte opposto invece Unicredit ha recuperato il 9,2%, più 9,2%, il miglior titolo a 2,71 euro. Marco Liera, allora, domande rapidissime che sono arrivate. Perché l'Euribor non cala? Nonostante il taglio della BCE, l'Euribor è ancora a livello record, c'è il tasso che si usa per i mutui, al 5,39%. Perché manca il meccanismo di trasferimento del ribasso dei tassi ufficiali rispetto al tasso al quale le banche si scambiano tra di loro i depositi. C'è una domanda in questo momento di capitali tra le banche che addirittura eccede le loro necessità quotidiane, ed è una domanda cautelativa, perché le banche vogliono prepararsi all'eventualità di non avere più soldi con i quali fronteggiare le richieste di impiego. Quindi questo crea un blocco di fatto del mercato interbancario, quindi i depositi si spostano solo a caro prezzo. Questo prezzo molto elevato, appunto, rappresentato dall'Euribor. Che cosa, da quello che si è capito, mancando ancora un testo, che cosa prevede l'iniziativa presa ieri dal governo? Garanzie su tutti i depositi, quindi non solo in base al fondo interbancario, dello Stato fino a 103.000 euro. Lo dico a chi ci scrive: se avete tre depositi da 103.000 euro, la garanzia è solo fino a 103.000, non è che si possono avere tre depositi da 103.000 in tre diverse banche. È la somma di tutti i depositi vostri, è garantita fino a 103.000 euro. Che cosa, da quello che si è capito, in questo momento non è garantito? Vogliono sapere gli ascoltatori: obbligazioni bancarie, altre forme di investimento? Dalle informazioni in nostro possesso, in questo momento risulta che non siano garantite le obbligazioni emesse dalle banche. Se ciò accadesse, chiaramente si aprirebbero scenari nuovi anche per il debito pubblico, perché ricordiamo che le obbligazioni bancarie sono pari a un ammontare di oltre 600 miliardi di euro, quindi garantirle tutte sarebbe un po' problematico. Non vorrei che per garantire le obbligazioni delle banche dovessimo assistere magari a un ribasso dei prezzi dei titoli di Stato, perché a quel punto comincerebbero magari ad aleggiare un po' dei dubbi sulla tenuta del debito pubblico, no? Certo, mentre alcuni di voi sono offesi perché li ho definiti rurali, non è nessuna offesa per i rurali, dei ladri questi manager, mettiamole così, parlo di AIG, non abbiamo nessun problema a fare il nome di Cimoli o di Catania, è inutile che si polemizzi sempre al 349-238-6666, abbiamo detto più volte quanto prese Catania per andare via dall'FS, Cimoli per andare via dall'FS, dall'Italia, ma andiamo avanti con le informazioni. Che cosa potrebbe capitare adesso in banca? Nel senso che io ho capito che i miei risparmi fino a 103.000 euro sono garantiti. Secondo te, agli sportelli potrebbe verificarsi una richiesta di spostare gli investimenti dai fondi, dalle polizze in conto corrente, oppure è più probabile che vengano spostati in bot o pronti contro termine, visto che lì garantisce sui bot lo Stato italiano? Ma sui bot certamente c'è una possibilità di spostamento, lo vediamo nei dati, cioè le obbligazioni bancarie a parità di durata rendono circa il 2% in più dei titoli di Stato, quindi significa che già il mercato, gli investitori pretendono, esigono dagli emittenti bancari una remunerazione più alta perché vedono una maggiore sicurezza nei titoli di Stato. I depositi certamente sono l'alternativa sicura, proprio perché c'è questa garanzia del fondo interbancario ormai consolidata, c'è poi la dichiarazione, l'annuncio della copertura pubblica, sicuramente anche i depositi sono un'alternativa sicura. Presupporre che ci sia un trasferimento da impieghi non assicurati a impieghi assicurati o garantiti dallo Stato è sicuramente un'ipotesi, anche se dovremmo valutarla negli spostamenti giorno per giorno. Purtroppo i flussi su questi argomenti, su questi i flussi di capitale all'interno delle banche non hanno mai una visibilità day by day, giorno per giorno, quindi sono un po' ritardati. Altra domanda, come si stanno muovendo le obbligazioni? Allora, i bot hanno un prezzo e un rendimento, le due cose sono inversamente proporzionali, se si alza il prezzo diminuisce il rendimento, se si alza il rendimento diminuisce il prezzo. Come si sta muovendo la curva? Ma io stavo vedendo prima, in giornata il differenziale di rendimento tra i bund e tedeschi. I bund tedeschi, che sono l'investimento sicuro per eccellenza, e i BTP, che sono l'investimento sicuro per eccellenza per gli italiani, beh, questo differenziale, che rappresenta appunto la maggiore rischiosità attribuita dal mercato all'Italia, ai BTP, all'Italia rispetto alla Germania, questo differenziale è rimasto oggi sostanzialmente invariato. Quindi sembra che anche intorno agli 84 basis point, agli 84 centesimi di punto. Quindi significa che in questa fase evidentemente non ci sono motivi di maggiore preoccupazione. Questa mattina c'era stata qualche calo dei prezzi dei titoli di Stato a lunghissima durata, le scadenze 2034-2037, però in giornata il differenziale sul decennale è rimasto invariato. Ricordo, ha detto il Presidente del Consiglio, nessuna banca fallirà. Lo Stato ieri ha messo la sua garanzia, oltre quella già esistente nel fondo interbancario, per tutti i depositi fino a 103.000 euro complessivi. Non importa quanti siano i conti correnti, altrimenti sarebbe troppo facile. E le domande che sono rimaste in evase, Marco, che segnalano gli ascoltatori, sono di due tipi. In sostanza, molti ci chiedono sulle persone giuridiche. Vale questo tetto dei 103.000 di garanzia anche per le persone giuridiche o solo per le persone fisiche? Sì, perché il regolamento del fondo interbancario prevede che la garanzia vale per ogni depositante. Volevo tra l'altro ricordare che in caso di conti cointestati la protezione raddoppia. Raddoppia, certo. Se l'avete fatto con vostra moglie, con vostro figlio o con chi volete voi, se il conto è cointestato la protezione è doppia, quindi arriva fino a 206.000. Altra domanda, i fondi di liquidità, che cosa fare in questo momento? Tu hai fatto notare che i rendimenti delle obbligazioni italiane non si sono spostati molto in questi giorni, la differenza con il rendimento delle obbligazioni tedesche è rimasta invariata, e quindi vuol dire che non c'è stato un rischio paese che di solito poi porta i bot a salire quanto a rendimento, perché vuol dire che per prestare soldi al governo italiano vuoi interessi più alti. Gli interessi sono rimasti fermi. Per il momento il rischio Paese Italia non è avvertito dal mercato, anzi i rendimenti restano piuttosto compressi, anche se, come abbiamo detto prima, più elevati dei titoli di Stato considerati beni rifugio, come appunto i titoli di Stato tedeschi. C'è da dire che dal punto di vista del risparmiatore italiano in cerca di sicurezza non ci sono grandissime alternative ai titoli di Stato, perché comunque le statistiche ci dicono che i titoli di Stato contraddistinti da un rating AA2 secondo Moody's, come accade appunto ai titoli di Stato italiani, ecco, si tratta di valori, di strumenti che statisticamente non hanno mai dato nessun caso di insolvenza su periodi decennali. Quindi storicamente questo rating, appunto la AA2 o A+ per Standard & Poor's, è un rating per i titoli sovrani, i titoli governativi, di massima sicurezza. Diverso il caso invece per i bond, per i titoli societari contraddistinti dallo stesso rating. Lì in effetti la percentuale di default su orizzonti anche più brevi, anche di 5 anni, è diversa da zero. È molto importante appunto distinguere tra il rating che viene assegnato ai titoli governativi e il rating che invece viene assegnato ai titoli societari. Una tripla A assegnata a un governativo è cosa diversa rispetto a una tripla A assegnata a un titolo societario. Che è come dire che, insomma, le possibilità che fallisca una società ci sono, le possibilità che fallisca uno Stato sovrano come l'Italia sono assolutamente remote. Anche perché statisticamente non si è mai verificato che un paese questo rating così alto come quello assegnato all'Italia sia finito insolvente. Ultima domanda, ti dicevo i fondi di liquidità, allora sui fondi alle poste, no, questa garanzia vale solo per i conti correnti bancari, non per le poste italiane, che comunque sono partecipate dallo Stato, per cui insomma anche lì... C'è la garanzia di Stato, anche gli impieghi alle poste, esatto, godono della stessa sicurezza dei titoli di Stato, quindi non vedo nessuna differenza. O fallisce l'Italia o i vostri buoni postali, depositi postali sono garantiti. I fondi di liquidità che molti gestori e sportelli hanno consigliato in questi anni, perché dicevano insomma i mercati non vanno bene, metti tutto nei fondi di liquidità che sono appunto più agevoli e prendono meno rischi. Ecco, sui fondi di liquidità abbiamo ricevuto tante domande. Innanzitutto vi ha chiarito che non sono strumenti assicurati, quindi neppure i fondi di liquidità godono della protezione del fondo interbancario di garanzia dei depositi oppure di una garanzia di Stato. Certamente i fondi di liquidità, che è una categoria a soggezione ben precisa, hanno una politica di investimento molto restrittiva, quindi le oscillazioni del valore della quota di questi fondi non ci sono, non dovrebbero esserci. Purtroppo, ecco, nel corso dell'ultimo mese, in qualche rarissimo caso, l'abbiamo scritto su Plus 24 di sabato scorso, abbiamo registrato nel mese di settembre delle minime variazioni negative anche di questi fondi di liquidità. Segno, come poi si è visto anche dall'esame dei prospetti, dei rendiconti che mostrano quali sono i titoli in portafoglio, segno che evidentemente appunto anche nei portafogli di questi fondi, ma insisto, si tratta di casi veramente rari, non voglio creare allarmismi su questo, comunque si è visto che anche nei portafogli di questi titoli c'erano in minimissima, nei portafogli di questi fondi c'erano in minimissima percentuale anche titoli di non eccelso rating, di non eccelsa qualità, però si tratta di episodi molto marginali. Diverso è il caso dei fondi invece obbligazionari a euro a breve termine o dei cosiddetti Euribor Plus, che sono quelli che in teoria dovevano dare un rendimento superiore ai BOT, all'inflazione, all'Euribor, in realtà erano troppo frequentemente zeppi di titoli un po' tossici, un po' troppo tossici, e questi hanno registrato anche performance seriamente negative su orizzonti brevi. Titolo di Plus sabato? Beh, sabato ci occupiamo di mutui, la giostra dei mutui, come dicevamo prima, l'Euribor di nuovo record, come uscire da questa situazione, se conviene oppure no cambiare, per chi conviene. Bene, grazie, poi domani verrà ricordato anche in Salvadanaio dalle 12 in poi. Grazie a Marco Liera, capo redattore responsabile di Plus. Allora, in un orario un po' particolare oggi la borsa, ma soprattutto due casi di borsa. Non è che ci sia molto da dire in questi giorni. Il mercato quando gira, gira tutto. Era rimasto positivo fino a metà seduta, poi l'apertura dell'America ha penalizzato tutte le borse europee. Francoforte meno 2,5, Parigi meno 1,5, Londra meno 1,2, l'America perde mezzo punto percentuale, Milano meno 1,8 sull'S&P MIB e l'1,6 sul MIBTEL. Poi daremo la lista, ma con Livia Zancaner di Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Livia. Buonasera. Vorrei capire che è successo da un lato alla Popolare di Milano e a Intesa, che hanno perso. La Popolare Milano l'8,85%, Intesa il 7,6%. Sul fronte opposto invece Unicredito più 9,2%. Allora, come possiamo vedere, l'andamento dei bancari è stato estremamente contrastato, a conferma quindi di quanto continuano a ripetere gli operatori, che si tratta di un mercato estremamente tecnico, dove gli hedge fund vendono perché devono rientrare dai finanziamenti, ci sono riscatti da parte dei fondi e manca ancora la chiusura di qualche posizione sulle Lehman Brothers. Allora, Intesa San Paolo, quindi Popolare di Milano, sono crollate nel finale, quindi si è parlato di vendite tecniche e secondo alcune voci riportate nelle sale operative e anche ieri dal Sole 24 Ore, le vendite potrebbero essere anche state effettuate dal finanziere Roman Zaleski, che potrebbe aver alleggerito la quota, ma ripeto, sono voci non confermate e anticipate ieri dal Sole 24 Ore. Per quanto riguarda Unicredit, è balzata nel finale dopo aver ceduto oltre il 21% in quattro sedute. Allora, dopo l'approvazione da parte del governo del decreto che consente in caso di bisogno la ricapitalizzazione delle banche italiane, Moody's ha sottolineato che le banche appunto del nostro paese non hanno bisogno di aumenti di capitale per rafforzare i ratio patrimoniali e che è tranquilla sul rating di Unicredito. Questa notizia però è stata data sul finale di seduta e il titolo era già scattato prima, quindi può aver influito. può aver sicuramente influito. Grazie Livia Zancaner. Bene, oggi anche i talcementi, Mediolanum più 7% di talcementi, più 5 Mediolanum, più 3,4 in pregiro l'Espresso, più 3,2 Tenaris, più 2,8 il rialzo di ST Microelectronics, il 2,7 lo guadagnano sia Ubibanca che Fastweb, che Geox più 2,3. Male invece Enel meno 8,3, anche Bulgari meno 6, Terna meno 6, Prismian meno 4,5, Snam meno 4,4, Luxottica perde 4,2 e poi A2A, Atlantia, Fondiaria e Monte dei Paschi perdono 3%, Generali, Eni e Telecom il 2,6%. Dalla borsa milanese all'economia britannica. Non solo, non tanto per parlare del piano annunciato ieri dal governo britannico, simile a quello annunciato ieri poi in serata anche dal governo italiano, più grosso l'ammontare, quasi 70 miliardi di euro che verranno messi nelle casse delle 8 banche che ne fanno richiesta. In cambio il governo, come poi sul piano anche del nostro governo, il governo britannico riceverà azioni privilegiate. Nel frattempo la Banca d'Inghilterra renderà disponibili 200 miliardi di sterline, 270 miliardi di euro per prestiti a breve termine per dare liquidità, e il governo fornirà garanzie per fino a 250 miliardi di sterline per garantire la normale attività commerciale delle banche. No, la cosa che oggi ci ha fatto impressione è che nel frattempo è uscito il dato sui prezzi delle case in Gran Bretagna, meno 12% a settembre rispetto all'anno prima, il maggior calo da sempre, da 25 anni. Marco Niada, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna, buonasera. Buonasera. Allora, teniamo assieme le due cose, il piano britannico di salvataggio ma anche questo crollo dei prezzi del settore immobiliare. Sì, e dunque crollo mensile, il calo mensile dell'1,3%. Pari al 12,5% su base annua, il che vuol dire che appunto dall'inizio dell'anno i prezzi, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quindi a fine settembre dell'anno scorso, i prezzi delle case inglesi sono scesi del 12%. Quello che è preoccupante è il ritmo mensile, cioè ogni mese van giù dell'1-1,5%. Un ritmo così c'è il rischio che per fine anno saremo a 15-16-17% e, come alcuni prevedono, si possa addirittura arrivare, poi non si sa mai dove sta crisi va a finire, ma a un punto più basso, anche fino a 30%. Allora, come sì, si possono certamente mettere insieme le due cose. Il fatto è che questo piano del governo britannico è nato, era già stato studiato come eventualità, ma è nato in tutta fretta perché l'altro ieri, quindi la notte prima, cioè il pomeriggio prima della notte in cui il piano è stato annunciato, la Halifax, che è il più grande prestatore di mutui, parte del gruppo HBOS, la banca HBOS, ha perso il 40% in una seduta. E lo stesso la Royal Bank of Scotland, che è piena di debiti per altri motivi, perché ha fatto quantità di acquisizioni inimmaginabili, ha perso a sua volta il 40%. È chiaro che il governo britannico, davanti a un crollo di due grandi banche su cinque di questa entità, non poteva più far altro, perché il sistema stava perdendo completamente la fiducia. E quindi ha dato forma a un piano robusto, non tanto come tu hai fatto capire, di 500 miliardi di sterline come pacchetto, quindi diciamo 650 miliardi di euro, quanto l'aspetto interessante è che dopo 30 anni lo Stato è tornato, o almeno si prepara a tornare a diventare padrone. Secondo alcune stime, se questo piano va fino in fondo, cioè se le banche utilizzeranno tutti i 50 miliardi, quindi chiederanno capitale di 50 miliardi emettendo in cambio azioni privilegiate, quindi senza diritto di voto, quindi il governo non interferirà come voto, a questo punto il governo avrebbe, si fa una stima, perché poi la capitalizzazione delle banche continua a scendere, una quota tra il 20 e il 30% cumulativa nelle banche inglesi. Non solo, porterebbe il debito rispetto al PIL, il deficit scusa, rispetto al PIL dal 3-6%, con il rischio che il debito alla fine, tra Northern Rock, Bradford & Bing e adesso questi salvataggi, il debito pubblico vada da 40 a 56 e quindi si torni per 100 del PIL, e si torni quindi ai tempi antichi, se, come tu ricordi, di Dennis Healey e dei laburisti degli anni 70, quando andarono col cappello in mano a Fondo Monetario, sì, a chiedere dei soldi. Non mi fare troppo vecchio, li ho studiati, ah, più che ricordarli, no, però insomma, i tempi pre-Thatcher, per dirla tutta, e quindi i tempi in cui la Gran Bretagna non se la passava bene sul fronte del debito pubblico. Interessante quanto hai detto, nel senso che se tutte le banche in difficoltà in Gran Bretagna dovessero utilizzare questi 50 miliardi di sterline, 70 miliardi di euro messi a disposizione dal governo, lo Stato britannico avrebbe una quota di tutto il sistema bancario pari a circa il 20% dell'intero sistema bancario, una quota enorme. Grazie anche a Marco Niade in collegamento con noi dalla Gran Bretagna per averci spiegato anche le difficoltà e quanto imponente è il piano messo in atto dal governo britannico come emergenza per Halifax. Insomma, è veramente un colosso nei mutui in Gran Bretagna, non parliamo di Royal Bank of Scotland, che è la banca britannica in questo momento soprattutto, assieme a Barclays. Ultima risposta ai vostri sms di questa puntata, citate quanto detto ieri sera nella trasmissione Porta a Porta, che anche le obbligazioni bancarie sono garantite dallo Stato. No, a quello che ci risulta no, anche perché ce ne sono in giro qualcosa come 628 miliardi di euro. Altra cosa è dire che non siano garantite. Il ragionamento appena fatto: se lo Stato, il governo, non permetterà a nessuna banca di fallire, è ovvio che anche l'obbligazione emessa dalla banca è di fatto garantita. Però dire che per legge l'obbligazione bancaria è garantita dallo Stato è, da quello che ci risulta, un'inesattezza. È veramente tutto per questa puntata, e allora da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Vi lascio adesso alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.